Basic Italian, 7th edition. Chapter 10. A. Answer the questions you hear in the affirmative. Use indirect object pronouns where possible. Listen to the model. Parli a Mario? Sì, gli parlo. Let's start. 1. Scrivi a Gino? Sì, gli scrivo. 2. Telefoni a Carla? Sì, le telefono. 3. Rispondi a Luigi? Sì, gli rispondo. 4. Scrivi a noi per Natale? Sì, vi scrivo per Natale. 5. Ci telefoni domani? Sì, vi telefono domani. 6. Parli al dottore lunedì? Sì, gli parlo lunedì. 7. Mi consigli di andare in treno? Sì, ti consiglio di andare in treno. 8. Mandi un telegramma a papà? Sì, gli mando un telegramma. 9. Parli al capo ufficio? Sì, gli parlo. 10. Parli agli impiegati? Sì, gli parlo. B. Answer the questions you hear by indicating that all of you have already done what the speaker is inquiring about. Use indirect object pronouns. Listen first to the model. Scrivete a Mario? No, gli abbiamo già scritto. Let's begin. 1. Telefonate al signor Antonioni? No, gli abbiamo già telefonato. 2. Rispondete alla professoressa? No, le abbiamo già risposto. 3. Parlate agli impiegati? No, gli abbiamo già parlato. 4. Scrivete ai ragazzi? No, gli abbiamo già scritto. 5. Date le copie a Luisa? No, le abbiamo già dato le copie. 6. Ci spiegate la grammatica? No, vi abbiamo già spiegato la grammatica. 7. Mandate il regalo alla nonna? No, le abbiamo già mandato il regalo. 8. Telefonate al dottore? No, gli abbiamo già telefonato. C. Answer the next set of questions in the negative. Use indirect object pronouns. Listen carefully to the model. Compri un libro per Maria? No, non ne compro nulla. Let's start. 1. Mandi una cartolina ai nonni? No, non gli mando nulla. 2. Scrivi una lettera agli amici? No, non gli scrivo nulla. 3. Dai gli appunti a Giorgio? No, non gli do nulla. 4. Raccomandi questo albergo alla signora? No, non le raccomando nulla. 5. Leggi la lettura a quel ragazzo? No, non gli leggo nulla. 6. Dici tutto a Isabella? No, non le dico nulla. 7. Prepari la minestra per tuo fratello? No, non gli preparo nulla. 8. Fai male a Pierino? No, non gli faccio nulla. 9. Ci consigli di non andare? No, non vi consiglio nulla. 10. Compri qualcosa per Giuseppe? No, non gli compro nulla. D. Confirm what you hear. Use the appropriate indirect object pronoun. Listen first to the model. A Mario piace questa fotografia? Sì, gli piace. Let's start. 1. Agli italiani piace la pasta? Sì, gli piace. 2. Ai ragazzi piace il calcio? Sì, gli piace. 3. A Luisa piace leggere? Sì, le piace leggere. 4. Alle ragazze piace la musica rock? Sì, gli piace. 5. A voi piace nuotare? Sì, ci piace nuotare. 6. Al professore piace insegnare? Sì, gli piace insegnare. 7. Ai bambini piacciono i dolci? Sì, gli piacciono. 8. Vi piacciono i biscotti inglesi? Sì, ci piacciono. 9. Vi piacciono i film d'avventura? Sì, ci piacciono. 10. A Carla piacciono i ragazzi intelligenti? Sì, le piacciono. 11. A lei piace il gelato? Sì, mi piace. 12. A lei piacciono i fiori? Sì, mi piacciono. 13. A lei piacciono i film italiani? Sì, mi piacciono. 14. A lei piace la frutta fresca? Sì, mi piace. E. Answer the next group of questions in the affirmative. Listen to the model. Vi piace guardare la televisione? Sì, ci piace guardarla. Let's begin. 1. Vi piace scrivere le cartoline illustrate? Sì, ci piace scriverle. 2. Vi piace mangiare il pesce? Sì, ci piace mangiarlo. 3. Vi piace ascoltare la musica classica? Sì, ci piace ascoltarla. 4. Vi piace visitare le chiese antiche? Sì, ci piace visitarle. 5. Vi piace vedere i film italiani? Sì, ci piace vederli. 6. Vi piace fare fotografie? Sì, ci piace farle. 7. Vi piace ascoltare la radio? Sì, ci piace ascoltarla. 8. Vi piace visitare i musei? Sì, ci piace visitarli. 9. Vi piace leggere i giornali? Sì, ci piace leggerli. 10. Vi piace fare lunghe passeggiate? Sì, ci piace farle. F. Answer the next set of questions in the affirmative and say that you really liked the things mentioned. Listen to the model. Hai visto il film La dolce vita? Sì, e mi è piaciuto tanto. Let's begin. 1. Hai mangiato il panino? Sì, e mi è piaciuto tanto. 2. Hai letto il nuovo libro di Umberto Eco? Sì, e mi è piaciuto tanto. 3. Hai preso un cappuccino? Sì, e mi è piaciuto tanto. 4. Hai visto Venezia? Sì, e mi è piaciuta tanto. 5. Hai conosciuto i signori Anzo? Sì, e mi sono piaciuti tanto. 6. Hai provato il tiramisù? Sì, e mi è piaciuto tanto. 7. Hai visto i nuovi occhiali da sole di Bruna? Sì, e mi sono piaciuti tanto. 8. Hai visto la nuova macchina fotografica di Franco? Sì, e mi è piaciuta tanto. 9. Hai mangiato i ravioli al salmone? Sì, e mi sono piaciuti tanto. 10. Hai provato i vini italiani? Sì, e mi sono piaciuti tanto. G. You will now hear a list of things that the speaker does not like. Say that Dr. Casotti does not like them either. Listen to the model. Non mi piace la carne di manzo. Nemmeno al dottor Casotti piace la carne di manzo. Let's begin. 1. Non mi piace l'acqua minerale. Nemmeno al dottor Casotti piace l'acqua minerale. 2. Non mi piacciono i broccoli. Nemmeno al dottor Casotti piacciono i broccoli. 3. Non mi piace la gente scortese. 4. Non mi piacciono i bambini cattivi. Nemmeno al dottor Casotti piacciono i bambini cattivi. 5. Non mi piace la televisione. Nemmeno al dottor Casotti piace la televisione. 6. Non mi piace la pioggia. Nemmeno al dottor Casotti piace la pioggia. 7. Non mi piacciono i calzini rossi. Nemmeno al dottor Casotti piacciono i calzini rossi. 8. Non mi piace l'arte moderna. Nemmeno al dottor Casotti piace l'arte moderna. 9. Non mi piacciono i gatti. Nemmeno al dottor Casotti piacciono i gatti. 10. Non mi piacciono i lunghi viaggi in aereo. Nemmeno al dottor Casotti piacciono i lunghi viaggi in aereo. 8. Indicate that you do not know the answers to the questions you will now be asked. Listen attentively to the model. Sai dov'è la casa di Leonardo da Vinci? No, non lo so. It's your turn now. 1. Sai chi ha scritto la Divina Commedia? No, non lo so. 2. Sai chi ha fatto il film La Dolce Vita? No, non lo so. 3. Sai dov'è il Palazzo Ducale? No, non lo so. 4. Sai qual è la più grande città italiana? No, non lo so. 5. Sai dov'è la chiesa di Santa Croce? No, non lo so. 6. Sai dove sono il Foro Romano e il Colosseo? No, non lo so. I. Now answer the same set of questions in the affirmative. Listen to the model. Sai dov'è la casa di Leonardo da Vinci? Certo che lo so, è a Vinci. 1. Sai chi ha scritto la Divina Commedia? Certo che lo so, l'ha scritta Dante. 2. Sai chi ha fatto il film La Dolce Vita? Certo che lo so, l'ha fatto Fellini. 3. Sai dov'è il Palazzo Ducale? Certo che lo so, è a Venezia. 4. Sai qual è la più grande città italiana? Certo che lo so, è a Milano. 5. Sai dov'è la chiesa di Santa Croce? Certo che lo so, è a Firenze. 6. Sai dove sono il Foro Romano e il Colosseo? 7. Certo che lo so. Sono a Roma. J. Answer the following questions, indicating whether the persons specified like the items in question. Look in your manual for the necessary prompts. Listen to the model. Lo sai se a Giorgio piacciono gli spinaci? No, non gli piacciono. Let's start. 1. Lo sai se a Vincenzo piace giocare a tennis? Sì. Gli piace giocare a tennis. 2. Lo sai se ai ragazzi piace giocare a carte? No, non gli piace giocare a carte. 3. Lo sai se a Pierino piace il gelato al cioccolato? Sì, gli piace moltissimo. 4. Lo sai se a Cristina piacciono i ravioli alla crema? No, non le piacciono. 5. Lo sai se agli americani piace la pizza? Sì, gli piace molto. 6. Lo sai se agli italiani piace la birra? No, non gli piace molto. 7. Lo sai se a Stefania e Caterina piace l'idea di andare al Lido di Venezia? Sì, gli piace moltissimo. 8. Lo sai se al professore d'arte piace la pittura moderna? No, non gli piace affatto. 9. Lo sai se agli italiani piace viaggiare all'estero? Sì, gli piace moltissimo. 10. Lo sai se a Gabriella piacciono i cioccolatini? Sì, le piacciono. K. Answer each of the questions you hear in the negative. Listen to the model. Sapete quando arrivano i signori Jones? No, non sappiamo quando arrivano. Let's start. 1. Sapete perché Andrea è tornato così tardi? No, non sappiamo perché è tornato così tardi. 2. Sapete dov'è la fermata dell'autobus? No, non sappiamo dov'è la fermata dell'autobus. 3. Sapete quando parte il treno per Genova? No, non sappiamo quando parte il treno per Genova. 4. Sapete dove abitano i signori Bargellini? No, non sappiamo dove abitano. 5. Sapete che ore sono? No, non sappiamo che ore sono. 6. Sapete perché non ha scritto Antonio? No, non sappiamo perché non ha scritto. L. Listen to the questions. Answer that you want the second choice. Work from sound and memory alone. Listen to the model. Signorina, vuole un caffè o un tè? Voglio un tè. Let's begin. 1. Signori, vogliono due biglietti o tre? Vogliamo tre biglietti. 2. Volete guardare la televisione o andare al cinema? Vogliamo andare al cinema. 3. Carlo, vuoi mangiare a casa o fuori stasera? Voglio mangiare fuori stasera. 4. Ragazzi, volete giocare a carte o leggere? Vogliamo leggere. 5. Vogliamo andare a visitare Volterra o San Gimignano? Vogliamo andare a visitare San Gimignano. 6. I signori Albi vogliono andare a piedi o in macchina? Vogliono andare in macchina. 7. Lei vuole una camera doppia o una camera singola? Voglio una camera singola. 8. Volete andare alla tabaccheria o alle poste per i francobolli? Vogliamo andare alle poste. M. You and your friends are preparing for a party. Run a check of the things you need. Listen to the model. Facciamo una torta. Sì, ma ci manca lo zucchero. Now it's your turn. Look in your manual for your cues. 1. Prepariamo un'insalata? 2. Sì, ma ci manca la lattuga. 2. Facciamo anche una torta di mele? Sì, ma ci mancano le mele. 3. Prepariamo anche la minestra di verdura? Sì, ma ci manca la verdura. 4. Prepariamo anche dei panini al formaggio e prosciutto? Sì, ma ci manca il prosciutto. 5. Serviamo la Coca-Cola, il vino e lo spumante? Sì, ma ci mancano i bicchieri. 6. Compriamo lo spumante? Sì, ma ci mancano i soldi. 7. Invitiamo 50 persone? Sì, ma ci mancano le sedie. 8. Mandiamo inviti a tutti? Sì, ma ci mancano i francobolli. 9. Telefoniamo a tutti? Sì, ma ci manca il tempo. N. Mr. and Mrs. Wheaton have returned to their hotel after their first day in Florence. Listen to Mr. Wheaton's conversation with the hotel desk clerk. Then, answer the questions in your manual. Buonasera. Allora, signori, gli piace Firenze? Non so cosa dire. C'è tanto da vedere. Se vogliono vedere il panorama della città, gli consiglio di andare al piazzale Michelangelo. Grazie, ma abbiamo già un programma per domani. Dove vanno? Domani andiamo al museo di Palazzo Pitti e al giardino di Boboli. Un'idea eccellente! Dal giardino di Boboli è facile arrivare al Belvedere, dove il panorama è stupendo. Per mangiare, cosa ci consiglia? Vogliono mangiare qualcosa di speciale? No, niente di speciale. Solo qualcosa di semplice, ma buono. Allora gli consiglio una piccola rosticceria in Via Romana, vicino a Palazzo Pitti. Non è neanche cara, anzi, tutt'altro. Cosa pensano di fare nel pomeriggio? A mia moglie piace girare per i negozi. Io preferisco tornare in albergo e leggere qualcosa della storia di Firenze.